inonda il lago d'Orta, in Lombardia cresce il livello di quello di Como. Il governo convoca gli stati generali sul dissesto idrogeologico. Galletti dice basta condoni, sono come un tentato omicidio, 7 miliardi in 7 anni per il territorio. Primo via libera le nuove regole per il catasto, ma con gli algoritmi che calcoleranno le rendite ci sono forti rischi di aumento delle tasse. Guerriglia nella notte davanti a un centro per rifugiati in periferia a Roma, a Tor Sapienza, cassonetti dati alle fiamme, qualcuno parla di spari. Fermati a Roma due uomini, a casa avevano la bandiera dell'ISIS e mappe della capitale. In Libia decapitati due attivisti per i diritti umani. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, come sempre se volete le potete commentare al 349-238-6666 oppure scriverci a effettogiorno@radio24.it, c'è anche la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Iniziamo come ormai facciamo da giorni purtroppo parlando degli effetti delle precipitazioni sul territorio. A Chiavari in Liguria è stata una notte terribile, due fiumi che attraversano la città sono esondati, l'acqua ha invaso le strade, nell'entroterra Ligure ci sono due persone disperse in una casa investita da una frana. Tra l'altro viene battuta adesso dalle agenzie la notizia che le previsioni meteo, che comprendono ancora piogge diffuse persistenti e di forte intensità, hanno spinto la Protezione Civile Ligure a prorogare fino alle 15 di domani lo stato di allerta 2. Dunque vedremo che cosa succederà anche dal lato naturalmente della chiusura delle scuole. Intanto io saluto Roberto Levaggi, che è il sindaco di Chiavari. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Notte terribile, si diceva. Sì, perché siamo qui in piena emergenza, perché sta continuando a piovere, adesso abbiamo anche tantissimi detriti da portare via, centinaia di piccole commercianti, aziende disastrate, perché nelle vie principali della città si sono trasformate improvvisamente, dico una cosa così, a memoria d'uomo non si era visto. Oltretutto noi abbiamo un piccolo centro meteorologico qui gestito dal seminario vescovile, dalla curia, più di 150 anni non ha mai registrato dal loro pluviometro tanta acqua in così poco tempo. Dalle 8 di ieri sera alle 10 sono stati 285 mm, cosa che avviene in 4-5 mesi, è venuto in due ore. Si è abbattuto sulle colline intorno a Chiavari e ha provocato lo stranamento contemporaneo di due torrenti, di due fiumi che attraversano la città. Cosa che non è mai successa. Tra l'altro dalle vostre parti, forse proprio a Chiavari, si trova in questo momento il nostro Andrea Ferro. Andrea, buongiorno, siamo riusciti a raggiungerti. Ecco, sì, buongiorno. Ecco, io vi parlo da Levi, che siamo alle immediate spalle di Chiavari, dove sono in corso le operazioni di ricerca dei corpi dei due coniugi sepolti sotto la frana, le macerie, il fango della casa in cui abitavano. Ricerche che chiaramente con il passare delle ore sostanzialmente non lasciano speranze di trovarli ancora in vita. Qui piove forte, ma per intenderci non è in atto uno di quei temporali autorigeneranti che nel corso della serata di ieri hanno gonfiato i torrenti fino a farli esondare. Poco fa sono state anche identificate le due persone, si tratta di un uomo di 73 anni e di una donna di 69 anni. Sta bene invece la giovane donna soccorsa con l'elicottero dei vigili del fuoco in mattinata dopo che era scampata al crollo della sua casa situata nel comune di Carasco, ma in realtà a poche decine di metri da la casa crollata di Levi. Per quanto riguarda la situazione ora, come dicevo, piove forte, la situazione è sempre piuttosto critica in Val Fontanabuona, dove le squadre di soccorso faticano a raggiungere ancora numerose frazioni isolate, praticamente il fango, gli smottamenti, le frane hanno cancellato un intero sistema viario. Per quanto riguarda i collegamenti, si circola su un solo binario tra Rapallo e Chiavari, quindi sulla linea Genova-Roma, la linea tirrenica, chiaramente ci sono dei ritardi, sempre chiusi i caselli sulla 12 di Chiavari e di Lavagna. Uno sguardo, Simone, anche al resto della regione, perché la situazione non è critica solo qui, ma anche nel ponente tra Genova e Savona ci sono allagamenti a Cogoletto, a Celle, a Varazze, e più a ponente nell'Impriese c'è molta impressione anche in Val di Vara e in Val di Magra al confine con la Toscana. Frane, smottamenti anche a Genova, sia a Quinto sia a Praci, sono dei caseggiati evacuati, quindi per rendere allora, una situazione estremamente complessa e variegata su tutto l'arco. Allora, intanto Andrea ti ringrazio, posto che torneremo a collegarci con te nella seconda parte della trasmissione per avere un punto della situazione, per capire dove sei. Io vorrei tornare dal sindaco brevemente, poi lo lascio naturalmente al lavoro complicato di un amministratore comunale in queste ore, dal sindaco di Chiavari, per capire qual è lo stato della situazione adesso e come vi state organizzando. Allora, in questo momento purtroppo piove, l'allerta 2 è stata prorogata, ovviamente domani chiuderemo tutte le scuole di ogni ordine grado, i mercati, le fiere eccetera. Arriveranno adesso, è arrivato un senatore della Repubblica della Commissione di Difesa che di queste zone, il senatore Vattuone, che mi ha detto che arriveranno due colonne dell'esercito, una di alpini, una di fanti dal Piemonte, con delle ruspe, un totale di 80 uomini, più 150 di volontari della protezione civile che saranno dislocati non solo a Chiavari ma anche nei comuni dell'Interland dove sono stati più frane. Allora, intanto la ringrazio, grazie al sindaco Roberto Levaggi, sindaco di Chiavari, che torneremo a sentire, insomma, naturalmente se non oggi sicuramente nei prossimi giorni, anche per capire come sempre come è stato possibile l'esondazione di questi due fiumi al di là dell'enorme quantità d'acqua. Il resto del territorio italiano, problemi per il maltempo anche nel Comasco, nella frazione di Civiglio alcune abitazioni sono isolate in seguito alla caduta di una frana sulla strada, mentre il livello del lago è vicino all'esondazione. In provincia sono segnalati allagamenti e smottamenti in varie zone e anche il lago d'Orta, dopo quello maggiore, siamo in Piemonte, esondato a Domegna a causa delle piogge che stanno interessando la provincia di Verbania, allagata la zona dei parcheggi pubblici e la piazza davanti all'ospedale Madonna del Popolo. Naturalmente su tutto questo torneremo ad aggiornarvi. Proprio oggi si riuniscono gli stati generali contro il dissesto idrogeologico, un appuntamento voluto dall'esecutivo in vista del piano per la sistemazione del territorio. Ha seguito e sta seguendo i lavori Francesco De Remigis. Buongiorno Francesco. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. È un piano nazionale, quello annunciato poco fa agli stati generali contro il dissesto idrogeologico, che si dà un orizzonte di circa 6 anni per la prevenzione strutturale e per la manutenzione del territorio, per cui sono già state sbloccate centinaia di opere per la ricostruzione delle zone danneggiate. E poco fa è intervenuto anche il coordinatore della nuova struttura che fa capo a Palazzo Chigi, Erasmo De Angelis, e De Angelis ha definito dannosi i condoni per quanto riguarda la salvaguardia del territorio. Ma sentiamo anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Del Rio, che quantifica in 9 miliardi le risorse per finanziare il piano. Il nostro territorio soffre, dobbiamo fare in modo che non soffra per la nostra inerzia, e per questo abbiamo fatto l'unità di missione che ha sbloccato 2 miliardi di lavori non fatti, per questo abbiamo deciso di coordinare da Palazzo Chigi tutti gli interventi di cura e manutenzione del territorio in questa fase, per questo oggi gli stati generali che servono appunto a mettere a punto un piano strategico per il paese nei prossimi 5 anni, insieme alle regioni, insieme ai consorzi di bonifica, insieme ai territori, proprio per dare il senso di una cura collettiva verso il nostro paese che è anche molto fragile. Alcune fragilità sono incorreggibili, non è che la pianificazione o l'esecuzione dei lavori potrà per forza annullare tutti i rischi, però certamente li potrà ridurre di molto, e questo è il nostro dovere ed è quello che ci stiamo impegnando a fare. Il piano in realtà è molto più ambizioso perché coinvolge 4 miliardi di fondi di sviluppo e coesione, più altri 2 miliardi dalle regioni, più altri 2 miliardi dai fondi europei sugli obiettivi tematici che riguardano la cura del territorio, quindi stiamo parlando di un piano che supererà sicuramente i 9 miliardi, è un piano molto ambizioso, il primo piano per l'Italia di grande cura del territorio. Ecco, il sottosegretario Del Rio sottolinea dunque che non c'è un problema di risorse ma di coordinamento tra tutti i protagonisti, dalla protezione civile alle regioni fino alle imprese. Proprio a questo dovrebbe servire la nuova struttura di Palazzo Chigi. A te Simone. Grazie a Francesco De Remigis per questi aggiornamenti. Veniamo alla cronaca, restiamo anzi in realtà sulla cronaca italiana, perché è stato arrestato l'ex presidente della Cassa dei Ragionieri. Per quanto riguarda la Cassa dei Ragionieri, il denaro sottratto sarebbe stato trasferito tramite società offshore su conti bancari alle isole Bermuda e Mauritius per rientrare infine in Italia a disposizione di alcuni degli arrestati, sinora 8. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed evidentemente abbiamo avuto un problema con questo servizio sul quale torneremo più avanti. All'estero, due giovani di 19 e di 21 anni, attivisti per i diritti umani, sono stati decapitati a Derna, nell'est della Libia, dove gli jihadisti hanno giurato fedeltà all'ISIS e imposto la Sharia. Lo riferiscono media locali. I due sarebbero sostenitori dell'ex generale Khalifa Haftar, che combatte i gruppi estremisti a fianco dell'esercito regolare. E a proposito di ISIS, c'è la notizia che vi abbiamo dato nei titoli, che è stata diffusa nelle scorse ore. In realtà l'arresto, il fermo, è avvenuto nella giornata di domenica. Due uomini, due maghrebini, sono stati fermati. A casa avevano la bandiera dell'ISIS e mappe di Roma. Di questo torneremo a parlare più avanti con un esperto di antiterrorismo. La manovra stop per mancanza di copertura o estraneità di materia, circa 1600 emendamenti alla legge di stabilità. Sul tavolo della Commissione Bilancio della Camera ne restano dunque 2100 che dovranno essere esaminati. Gli emendamenti naturalmente sono le proposte di modifica parlamentare. Tra gli emendamenti giudicati inammissibili ci sono quelli di Maino Marchi e Marco Causi del Partito Democratico per riportare l'anticipo del TFR in busta paga ad un sistema di tassazione separata, ossia non cumulabile con il resto dell'imponibile. Ma c'è un'altra notizia che riguarda le nostre tasche e che sta catalizzando l'attenzione in queste ore e riguarda la riforma del catasto. Cristiano Dell'Oste, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Allora, è la vostra apertura, l'apertura del Sole 24 Ore oggi in edicola e mi sembra di aver capito anche da quello che scrivete voi e dalle simulazioni che fate che il rischio che ci vengano, che i soldi che dobbiamo pagare salgano è piuttosto forte. Allora, diciamo questo, la notizia è che il governo ha dato il via libera alla versione finale del decreto che crea le nuove commissioni censuarie, che sono il primo organismo che attuerà la riforma del catasto, è il primo tassello. Poi si apre un percorso abbastanza lungo, che dovrebbe richiedere intorno ai 5 anni, al termine del quale avremo le nuove rendite catastali. Nuove rendite catastali che saranno la nuova base dell'IMU o di quella che sarà all'epoca l'imposta immobiliare. Qui entra effettivamente, come tu dicevi, il rischio di rincari. Perché? Perché le nuove rendite avvicineranno il valore patrimoniale, cioè la base imponibile, al valore di mercato. Oggi chiunque possieda una casa sa che in genere il valore fiscale è più basso di quello di mercato. Non sempre ormai, perché con le rivalutazioni ci sono anche casi in cui già oggi è più elevato, ma mediamente è più basso. È chiaro che se si alzerà il valore fiscale, la vera sfida sarà fare in modo che le aliquote vengano passate così da non trovarsi a pagare più imposte, ma qui noi sappiamo che ogni volta che si è finiti nelle mani dei comuni negli ultimi anni il meccanismo perverso, da un lato lo Stato taglia i trasferimenti, dall'altro i comuni cercano di avere comunque la stessa quantità di risorse per far quadrare i bilanci, ecco, questo meccanismo ha sempre prodotto rincari d'imposta negli ultimi anni, quindi ecco perché si parla da più parti, da mesi in realtà, gli allarmi sono stati lanciati dalla proprietà edilizia ma anche dal Sole 24 Ore più volte, del rischio di rincari insito in un'operazione che fa crescere la base imponibile e che affida l'invarianza di gettito per ora a un principio, perché poi bisogna capire cosa si intende per invarianza di gettito, potrebbe essere l'invarianza a livello di singolo comune ed è molto difficile da garantire, oppure l'invarianza a livello nazionale che è più facile da garantire ma che rischia di lasciare alcune città con pesanti aumenti di imposta e altre magari con qualche regalo o con qualche sconto o con qualche diminuzione. Esatto, però è distribuito in modo casuale. Grazie a Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore e vi raccomando, Il Sole 24 Ore oggi in edicola con tutti i dettagli. La politica intanto discute di legge elettorale, di patto del Nazareno, di rapporti interni alla maggioranza e di quelli interni anche alle minoranze. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, è così, Simone, si discute di legge elettorale con l'impegno ad approvarla entro febbraio al Senato e con l'intesa di non andare a elezioni prima del 2018. Questi punti cardine dell'accordo raggiunto ieri in un vertice con cui il Premier di fatto blinda la maggioranza e l'Italicum dagli alleati di governo. Il PD incassa infatti il via libera al premio alla lista con soglia al 40%, ma concede ai piccoli partiti l'abbassamento della soglia di sbarramento al 3%. Un accordo che sbarca oggi alle 16 a Palazzo Madama, dove un l'ufficio di presidenza stenderà il calendario dei lavori in commissione, dove ricordiamo l'Italicum è fermo dallo scorso 12 marzo. Sulla legge elettorale Renzi e Berlusconi dovrebbero vedersi invece domani, quasi certamente prima della riunione del PD fissata nel pomeriggio della stessa giornata, mentre nelle prossime ore è previsto il comitato di presidenza di Forza Italia. Bisognerà vedere a questo punto quale sarà la linea del partito, perché le dichiarazioni di Brunetta non sembrano lasciare molti spiragli. Se la legge elettorale cambia non c'è più il patto del Nazareno, ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, parole alle quali ha replicato poco fa il sottosegretario Luca Lotti. Se la linea di Forza Italia è quella di Brunetta, allora è inutile l'incontro di domani. Insomma, il PD sulle riforme andrà avanti anche da solo, come ha spiegato il vice segretario Guerrini. Intanto dal nuovo centrodestra sembra tendere una mano agli azzurri il ministro dell'interno Alfano. Se Berlusconi non utilizzerà il patto del Nazareno come uno strumento contundente verso gli alleati, dice, se sarà privo di rancore, noi saremo pronti a ricostruire la prospettiva del centrodestra. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Scapisi per questi aggiornamenti. Ci pigliamo una pausa per andare a sentire che cosa succede sulle strade e poi dopo parleremo di parecchi argomenti. La sentenza di ieri per quanto riguarda la commissione grandi rischi per il terremoto dell'Aquila, parleremo di terrorismo internazionale e terrorismo italiano, i rischi per il terrorismo in Italia, e poi parleremo anche del nuovo disco di De Gregori. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Alluvione nel Levante ligure, Chiavari sott'acqua, come avete sentito anche dalle informazioni sul traffico, e due dispersi nell'entroterra. È stata prorogata l'allerta 2 fino a domani alle 15. In Piemonte è sondato il Lago d'Orta, in Lombardia cresce il livello di quello di Como. Il governo intanto ha convocato gli stati generali contro il dissesto idrogeologico. Il ministro Galletti dice basta condoni, sono come un tentato omicidio. Primo Via Libera, le nuove regole per il catasto, ma con gli algoritmi che calcoleranno le rendite ci sono forti rischi di aumento di tasse. Intanto sforbiciata per gli emendamenti alla legge di stabilità, ne sono stati tagliati 1.600, ne rimangono comunque 2.100. Guerriglia nella notte davanti a un centro per rifugiati in periferia a Roma, a Tor Sapienza, cassonetti dati alle fiamme e spari. E adesso vi parliamo di musica, del nuovo disco di Francesco De Gregori. La musica non si chiude in un museo, si vive e si rinnova. Lo sostiene da sempre Francesco De Gregori, che con questo spirito ha riarrangiato, risuonato, quasi riscritto 28 brani del suo repertorio in una raccolta che si chiama Viva Voce. Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Omaggiando Cohen e Dylan, ricordando Lucio Dalla, con il quale, ne è convinto, sarebbe tornato a collaborare, affiancandosi a compagni d'eccezione come Luciano Ligabue, con cui ha rivisitato Alice per tirarla fuori dalla nostalgia. E si diverte anche a scherzare sui loro primi incontri qualche anno fa. Una sera è venuto a trovarmi nel camerino del Vox. Arriva Ligabue, entra e mi abbraccia. Francesco, sono venuto a sentire. Da quel momento le mie quotazioni presso i miei amici sono esplose. Sono dei coi miei figli mi guardavano in un altro modo. Papà, ma Ligabue ti conosce? Dico, vabbè, sì, mi conosce. E io non voglio più, i pazzi siete voi. Tutti pensarono dietro ai capelli. Un De Gregori di ottimo umore che sostiene che il grande schivo non c'è mai stato e si rabbuia un po' solo quando gli si chiede di esprimersi sulla politica. Per me è una cosa talmente alta che non tollera di essere, come dire, discussa frettolosamente. Io credo che per un artista fare politica voglia dire fare bene il suo lavoro. Per me questo oggi è fare politica col mio lavoro. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso cambiamo completamente argomento e veniamo alla sentenza arrivata ieri con la quale sono stati assolti i componenti della commissione Grandi Rischi. Ricorderete naturalmente la vicenda, 2 anni fa c'era stata la condanna anche per una serie di scienziati per così, questa era la vulgata, perché non avevano previsto o comunque non avevano avvisato i cittadini dell'Aquila che c'era il rischio rischio concreto di un terremoto di grandi dimensioni. Saluto il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente. Buongiorno, buongiorno. E bentornato ai nostri microfoni. Senta, è stata accolta ai familiari delle vittime la sentenza di ieri con grida di vergogna, con una rabbia che per certi aspetti, naturalmente da un punto di vista strettamente emotivo, è fortemente comprensibile. Lei come la valuta? Ma guarda, innanzitutto io esprimo dolore di una città, soprattutto per la solidarietà, per un senso di pietas nei confronti delle famiglie, delle vittime che hanno avuto una ferita nuovamente riaperta, no? Una ferita che non sta certo cicatrizzando. E dopodiché invece la riflessione a fare è questa: io non commento mai le sentenze, questa nessuna sentenza, e attendo di leggere chiaramente poi le motivazioni della stessa, però non sono stati assolti tutti, perché è stato condannato, mi spiace umanamente, De Bernardinis, che era il vice capo della protezione civile, e la protezione civile viene condannata. Quindi adesso bisogna capire perché gli altri 6 membri della commissione grandi rischi sono stati assolti, mentre invece c'è questa condanna per una parte delle vittime a carico di De Bernardinis, io credo come esponente della protezione civile. Ci fu, sembra di capire da questa valutazione, posto che naturalmente dovremmo vedere, appunto, come diceva lei, la sentenza, le motivazioni della sentenza, che ci sia stata l'ipotesi di una sorta di volontà politica, no? Di calmare le acque a fronte degli allarmi lanciati su un possibile Big One all'Aquila. Ma guardi, la vicenda è... Io sospettai, capii molto, infatti nella mia testimonianza io ho detto che da quella commissione alla quale fui invitato all'ultimo secondo, era già iniziata quando arrivai, non uscì per niente tranquillizzato. E poi dopo la pubblicazione dell'intercettazione del capo della Protezione Civile Bertolaso con l'allora assessore della Protezione Civile regionale e Stati, si capisce il perché di questa stranissima convocazione, no? Della Commissione Grandi Rischi, la cui riunione durò forse se no 2 ore, anche meno, era dettata dal fatto che noi avevamo un tecnico, il signor Giuliani, che sì. Diceva che poteva prevedere i terremoti, e sì. Questa previsione era legata al fatto che noi avevamo una media, uno sciame sismico con una media di 5, 6, 10 scosse al giorno. E la settimana precedente, credo, la domenica precedente o 2 domeniche prima di quella riunione, vi era stato un allarme con una richiesta da parte di Giuliani che consigliava di evacuare la città di Sulmona. Quindi c'era un quadro particolare, sì. Per cui diciamo così, questa commissione grandi rischi fa parte, a mio avviso, di un modo stranissimo di comportarsi, però del sistema paese, non tanto solo della protezione civile, perché mi lasci dire la cosa della quale sono convinto e sulla quale io mi sto spendendo. Noi sappiamo di essere un paese ad altissimo rischio sismico e non stiamo facendo nulla per affrontare questo rischio. Perché il tema eccellente, mi sembra questo, che si è un po' rischiato con questa branca del processo, per così dire, di sottovalutare tutto il resto, ossia come sono stati costruiti gli edifici, in che modo e come sono stati approntati eventuali piani di evacuazione e così via. Sì, primo, mi dica, le dico io che l'ho vissuta tutta. I piani di evacuazione in caso di terremoto con lo sciame, no? Ma il momento in cui arriva la scossa, il terremoto non ti dà tempo di evacuare, d'accordo? Perché questo deve essere una cosa ben chiara, altrimenti continuiamo a giocare, no? Dice sta arrivando l'acqua un'ora prima, un'esondazione, vai via, no? Il terremoto è una botta e il crollo immediato, come è successo sì. Da noi, è stata una cosa immediata, non ti dà tempo di scappare, neanche certo. Di metterti sotto al tavolo, sì. Questo va compreso. Dopodiché non è possibile assolutamente prevedere se in presenza ad esempio di uno sciame sismico drammatico come il nostro, se non su dati storici, d'accordo, sì. Che spesso si perdono a secoli prima, se arriverà la botta terribile. Ma questo paese non può andare avanti dicendo viene o non viene con la Sibilla Cumana, con i fondi del caffè e così via. Bisogna che il nostro paese avvii un piano cinquantennale, sessantennale, di messa in sicurezza del grande patrimonio edilizio che ha, che soprattutto in muratura, penso ai grandi centri storici, cosa che si può fare, e del rischio, da rischio idrogeologico. Questo è un nodo che non si affronta. Allora è più facile far finta di convocare una commissione grandi rischi, è molto più facile fare processi per dare fra l'altro una risposta alla disperazione dei sopravvissuti, un uso politico per cui il problema diventa che un signore, un tecnico dice che prevede i terremoti e vuole evacuare una città come Sulmona, piuttosto che fare quello che ha fatto il Giappone, che ha fatto il Cile, che fanno gli Stati Uniti, avere case che se ti arriva una scossa sismica ti salvano la vita. Questo è facilissimo. D'altra parte io vi sottolineo, allora, che a noi, mi scusi, le vittime non sono state tante legate ai palazzi del centro storico che erano state risistemati dopo il terremoto del 703, sì, ma sono state legate al crollo di edifici degli anni 70, edifici moderni, dei quartieri residenziali, cioè quelli innanzitutto più costosi, che erano stati costruiti male e che sarebbe stato sufficiente andare a rivedere con dei controlli costanti degli edifici in senso antisismico negli anni. Questa è la verità che non allora, si dice in Italia. Allora, grazie Massimo Cialente, sindaco dell'Aquila, le auguro una buona giornata e saluto Gianluca Ansalone, docente di geopolitica e strategia alla CIO e Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, esperto di antiterrorismo. Bentornato ai nostri microfoni, Ansalone, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Allora, è di due giorni fa la notizia, o meglio è di ieri, di queste ore, la notizia e il fermo di due giorni fa di due uomini, si immagina magrebini dalle notizie che abbiamo, che avevano a casa una bandiera dell'ISIS e una serie di cartine di Roma. Quanto è a rischio secondo lei il nostro paese? Lo è quanto gli altri paesi europei, senz'altro occidentali più in generale. Questo è soltanto l'ultimo di una serie di episodi negli ultimi anni che hanno avuto al centro operazioni di polizia che hanno per fortuna sgominato con anticipo tentativi presunti o più articolati di colpire al cuore il nostro paese, soprattutto in alcune città simbolo. Ricordo che alcuni anni fa venne tempestivamente, per fortuna, sventato un tentativo di attacco alla Basilica di San Petronio a Bologna, dove campeggia un mosaico che ritrae la figura di Maometto mangiato dal demonio. Oppure ricordiamo anche l'episodio del cittadino libico che provò a farsi saltare in aria davanti alla caserma di Santa Barbara a Milano. Insomma, questo è soltanto l'ultimo di una serie di episodi di campanelli d'allarme che vanno tenuti costantemente sotto controllo, perché da lì arriva il pericolo maggiore quando parliamo di terrorismo e di minaccia terroristica. È un elemento che avevamo già commentato con lei un paio di settimane fa, però ci interessa tornarci adesso, soprattutto visto quello che sta succedendo in queste ore, naturalmente con una valenza politica e con una situazione politica completamente differente, in Israele, dove stiamo assistendo ad una serie di episodi, per così dire, di cani sciolti, in realtà palestinesi in questo caso, che colpiscono, come è avvenuto ieri, con due coltelli, il che ci ricorda anche per esempio il fatto avvenuto in Canada qualche settimana fa. Insomma, il fatto che certe forme di terrorismo in genere assumano, che il terrorismo assuma delle forme diverse, se vogliamo più parcellizzate, polverizzate. Sicuramente è così. Guardi, gli elementi importanti del terrorismo sono strategicamente parlando due. Il primo è l'effetto sorpresa, il secondo è la spettacolarità dell'azione. È evidente che nel momento in cui il mondo occidentale soprattutto ha alzato le difese contro il pericolo di un effetto sorpresa dopo l'11 settembre, la capacità di colpire in maniera improvvisa e su larga scala da parte del terrorismo si è ridotta. E questo quindi la polverizzazione anche delle tattiche portate avanti dai gruppi terroristici o dagli individui radicalizzati deve cambiare e deve mutare esattamente per rispondere a questi due criteri che poi sono il punto di forza del terrorismo nella misura in cui riescono a spargere il panico e a creare un effetto quasi di protezione in un bunker da parte della società che si sente assediata letteralmente. Grazie a Gianluca Anzalone, docente di geopolitica e strategia alla SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Pausa, poi la borsa e poi dopo torniamo a riaggiornarci con la Liguria. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sta arrivando in questi minuti il rapporto della Commissione Europea sugli squilibri macroeconomici italiani. Lo slancio sulle riforme è aumentato, ma i progressi sono disomogenei. Incertezza significativa sulla revisione della spesa, dice Bruxelles. L'alluvione nel Levante Ligure, Chiavari è sott'acqua, ci sono due dispersi nell'entroterra, allerta 2 prorogata fino a domani alle 15. Primo via libera alle nuove regole per il catasto, con gli algoritmi che calcoleranno le rendite ci sono rischi di aumento di tasse. Guerriglia nella notte davanti a un centro per rifugiati in periferia a Roma, Tor Sapienza, calzonetti dati alle fiamme e spari. La borsa. Borse in diretta. Giornata positiva, un guadagno dell'1% sul FTSE MIB, dello 0,85% sul FTSE All Share. Il punto con CEO Condina di Radio Cori, il Sole 24 Ore. CEO, buongiorno. E come mai la borsa va bene? Buongiorno a tutti. Beh, sicuramente è stata una seduta che è iniziata bene grazie a Tokyo, che questa mattina ha chiuso le contrattazioni in rialzo del 2%, toccando i massimi da 7 anni, poi con il passare delle ore in mattinata, diciamo che gli acquisti sui listini si sono via via rafforzati, favoriti anche dal rialzo delle stime sull'intero esercizio del colosso delle telecomunicazioni inglesi Vodafone ha così spinto a rialzo tutti i principali titoli telefonici del vecchio continente, e così anche le borse hanno, diciamo, preso consistenza con i propri guadagni. E infatti Telecom Italia guadagna il 3,5%, bene anche complessivamente i bancari, mi sembra. Sì, diciamo delle buone performance, queste, adesso stanno uscendo i titoli, scusatemi, i conti di Intesa San Paolo, sono giorni di trimestrali, c'è grande attesa del mercato comunque per i conti che arrivano subito dopo gli stress test della BCE. Grazie a CEO Condina, Radio Cori Sole 24 Ore, buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La situazione del maltempo in Liguria, subito da Andrea Ferro. Dove ti trovi, Andrea? Sì, di nuovo buongiorno, mi trovo a Levi, a poche decine di metri dalla casa franata. Accanto a me l'ingegnere Amalia Tedeschi dei Vigili del Fuoco di Genova. Cos'è successo, ingegnere? È successo che a causa delle copiose piogge è venuta giù una colata di fango che ha travolto questa abitazione. Adesso noi, con l'ausilio del nostro gruppo Movimento Terra, oltre che Cani Cinofili, il nucleo Cinofili regionali, i colleghi del soccorso acquatico, stiamo cercando di valutare un attimo la situazione e verificare l'effettiva presenza di queste due persone all'interno della casa. Chiaramente con il passare delle ore le speranze di trovarle in vita sono praticamente nulle. Guardi, stiamo lavorando, noi speriamo che loro magari siano riusciti ad uscire prima, però a questo punto vediamo, continuiamo a lavorare, vediamo. Grazie anche a tutti i vigili del fuoco e volontari della protezione civile che stanno operando in questo momento in questa zona nel resto della Liguria, dove l'allerta 2 resta in vigore fino a mezzanotte ed è stato poi prorogato fino alle 14 di domani. La notizia è di pochi decine di minuti fa. Per il momento da Levi, nell'entroterra chiavarese, dove continua a piovere ma meno intensamente rispetto a prima, è tutto, la linea ritorna allo studio. Grazie Andrea Ferro anche per questi preziosi aggiornamenti. Io saluto adesso Roberto Torre, che è vicepresidente del comitato di quartiere di Tor Sapienza. Tor Sapienza, un quartiere alla periferia di Roma. Torre, benvenuto e buongiorno. Buongiorno a voi, buon lavoro. Allora, abbiamo visto che questa notte c'è stato sostanzialmente una sorta di vera e propria guerriglia di fronte a un centro per rifugiati che accoglie una 60ina di nigeriani, un centro per rifugiati con circa 150 persone del quartiere che sono andate là, è stato dato fuoco a dei cassonetti, si sono sentiti degli spari, più probabilmente erano petardi, immagino, ma non so esattamente. E lei era là ieri sera? diciamo, io proprio sul posto non mi trovavo, ma abito in linea d'aria a 250 metri. Praticamente è successo di questo: improvvisamente ci sono state 5 forti esplosioni, si sentivano grandi urla, io ho anche degli amici là che quindi mi stavano rapportando in diretta di quello che stava accadendo. È stata una guerriglia vera e propria. È stata un po' una goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché c'è stato l'ennesimo tentativo di stupro. Eravamo reduci da alcuni anziani picchiati selvaggiamente per pochi euro, eravamo anche reduci da appartamenti svaligiati completamente. I cittadini sono stanchi. Io, nonostante avevo già dato un po' di allarme sull'area di tensione che c'è nella nostra zona, perché noi non abbiamo solo i rifugiati, abbiamo campi nomadi stanziali, campi nomadi abusivi, quindi c'è un giro di criminalità che fa veramente spavento. E ieri sera è accaduta questa scintilla, a mio parere, molto, molto preoccupante. Mi scusi, ma perché proprio contro un centro per rifugiati, tra l'altro? Beh, perché normalmente i centri cioè, vengono fatti, poi la sorveglianza su quanto c'è di legalità all'interno, diciamo, è sempre un pochino latitante, e quindi diventano centri dove anche l'affare prende piede, e quando ci si vede che il proprio figlio o la propria figlia si tenta di stuprare, quando sono presi, perché la sopravvivenza di queste persone è una vera e propria sopravvivenza, e quindi succede. Ma avete prove che venissero da là quelli che, insomma, hanno tentato lo stupro? Hanno... Sì, perché si sono anche barricati, poi sono venuti anche i celerini che hanno dovuto forzare, voglio dire, queste cancellate, questi impedimenti che impedivano di entrare, li hanno portati via. C'è stato qualche scontro fisico tra, mi perdoni, tra virgolette, tra immigrato e italiano, no? Quindi poi succede che magari c'è chi ci sciacalla sopra, perché quando non ha risposte politiche concrete. Perché si sono sentite anche urla, viva il Duce, insomma, un po' di cose di questo genere. Mi è arrivata notizia, però ecco, diciamo, se lo devo dire di mia sponte, mi rimane un po' difficile ammettere che questo sia stato detto. Ecco perché dicevo, poi magari qualcuno tenta di strumentalizzare quello che accade. Il problema di fondo è che noi siamo in un quartiere oramai fuori controllo, fuori qualsiasi, voglio dire, ma vita normale. Mi dica una cosa, era una roba organizzata questa o...? Credo proprio di no. So che c'è attenzione. No, le dico perché su internet gira un volantino che dice: ci troviamo all'angolo con la strada dove poi c'è il centro, alle 17:30 volantino con data di oggi. Sì, sono dei cittadini che hanno convocato altri cittadini per discutere su che cosa fare e quello che non fare. Io, come comitato di quartiere, parlo comunque in plurale maiestatis. Noi siamo contro qualsiasi tipo di violenza, quindi andremo un attimo lì. Se i cittadini poi liberi, voglio dire, di fare le proprie scelte, vogliono prendere strade che non sono consone a cittadini civili o cedere alla violenza, questo da parte nostra verrà completamente... Pensa che succederà oggi? Io mi auguro di no, mi auguro che ci sia invece un insieme di proposte per dare, sempre tra virgolette, un pochino la stella alle istituzioni, che nonostante ne sono al corrente di queste grandi difficoltà di sopravvivenza, prendano atto che la criminalità, la tolleranza verso la criminalità non c'è, mentre non siamo assolutamente razzisti, ci vogliono far passare, assolutamente no. Grazie a Roberto Torre, vicepresidente del comitato di quartiere di Torre Sapienza, e siamo a Roma. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Pechino. Mario Platero, sono al seguito del presidente Obama che sta partecipando al vertice APEC. Here